Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La scoperta dell'America, testo di Cesare Pascarella con Valerio Malorni alla chitarra Andrea Cota. Ma sai che lui l'avesse trovo, ma sai da quanto tempo lo sapeva che al monno c'era pure il monno nuovo. E siccome la gente ci rideva, lui sai che fece un giorno? Prese un ovo e lì in presenza di chi non ci credeva gli fece e dice adesso ve lo provo. E lì davanti a tutti, zitto, zitto, prese quell'ovo e senza complimenti, paffete, glielo fece regge dritto. E nel vedere quell'ovo, dritto in piede, ma pure li più contrari, più scontenti, San Marco ci cominciarono a credere. Ci cominciarono a credere, sì signora, ma al solito a sto porco de paese si forse trova appoggio per le spese della scoperta. Gli toccò una fora. E siccome a quei tempi lì da allora regnava un re di Spagna portoghese, allora lui agnede in Portogallo e lì gli chiese de potergli parlare per un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica e poi gli fece dice sa, io avrebbe l'intenzione, se lei mi aiuta, di scoprire l'America. Fece il re che era nome esperto, sì, mi aiuto, ma non per fare eccezione, questa America c'è, ne siete certo, perché riguardo al compimento dell'impresa, io l'appoggio, però siccome... Ma fermate un attimo, Valerio, dai, fermati. Scusa, tu... sto andando avanti con il racconto. No, ho capito, ma ste fregnacce, ma che ne sai? Ma che vuol dire come le so? Ma che ne sai? Le so perché c'ho buona memoria, no? Che vuol dire la memoria? Che c'è stato? Ma che significa ci sono stato? Le so perché le ho lette. Vabbè, ma dove hai letto? Le ho lette nella storia. Quale storia? Nella storia più grande e più magnifica, che sarebbe il gran libro universale. Che l'antri libri, non per dirne male, non contrasta, saranno cose buone, ma l'ultimo sono tutti tale quale. Leghi, leghi, e che leghi, un'invenzione. Invece, con la storia universale, non c'hai da farci manco il paragone, perché lì ci trovi scritto il naturale dei fatti di tutte le persone. Vedi noi? Ma noi stiamo qui a suonare, Ma noi qua non ci si pensa, stiamo a parlare. Ma invece stiamo tutti nella storia. E per questo mi ha sempre soddisfatto, perché in qualunque storia che uno piglia, tu non leggi una storia, leggi un fatto. Basta, dunque, per far breve il discorso, vabbè, quel coppo messo lo mantengo. Oggi ci vi confesso che io non ce l'avevo rimosso. Per cui sta fare qui a da fare il suo corso. Perché io se governassi da me stesso, ma che c'entra? Mi direbbe annata adesso. Ma allora fece lui, ma con chi ho discorso? Ma voi chi siete? Il re o un particolare? Per essere re, so re, non c'è questione, ma mica posso fare quel che mi pare. E vuol dire che voi portate i registri delle spese, l'esatta relazione che vi farò a parlare con i ministri. E i ministri di qualunque stato sono stati sempre tutti di una setta. Il re orre ti portano in barchetta e ti fanno contento e coglionato, così lui ci si ritrova incastrato. Ma dove gli per forza dagli retta, gli fecero la solita scoletta, da Erode lo mannavano a Pilato, e invece di venire una decisione, sa, gli fecero, qui bisogna formare una commissione, lei agnerà a spiegare di che si tratta, e quando loro sono contenti, ritorni pure che la cosa è fatta. Già che ho fatto 30, invece quello, beh, dice che voi fa. Famo 31. Ci agnete. E ci ritrovò in mezzo a un riduno di gente da non crede, dove che malappena che c'entrorno, ci ritrovorno in mezzo allo stravede. No. Lo tenevano lì come il simpello. L'interrogorno tutti, uno per uno, e poi gli fecero dice, salvo ognuno, ma questo si è svoltato di cervello. Ma lui parlava, ma manco lo sentivano, e più lui si ammazzava per scoprirla, e più quell'altri gliela ricoprivano. Ma lì, secondo me, negli segreti di quel complotto lì, ma manco a dirla, c'era sotto la mano dei preti. E lui, defatti, si è messo in diffidenza e fece dice, qui per vicinato, ma se sente un po' di puzza l'ha bruciato. Ma fresca, qui ce vò prudenza. Difatti, tornò da Sua Eccellenza. Gli fece dice, beh, cosa hanno combinato? Dice, guardi, sa, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbia pazienza. Ma lui pensò, ma qui giochiamo a palla. Ma qui mi vanno mettere nel canestro. Ma sai che nova c'è? Meglio a piantarla. La voleva piantare. Cristoforo Colombo la voleva piantà. Ma una mattina, ma indovineci un po', non gli vi è l'estro de voler andare a parlare con la regina. E lì, defatti, come se trovorno assieme, lui e fece dice, sa, qui mi pare che è meglio dire le cose chiare. Tanti galli a cantare e non si fa mai giorno. Ce vado, ce ripasso, ce ritorno. Gli dico dunque, beh, per quell'affare, quale, dice, quel gran viaggio di mare, potrebbe ripassare un altro giorno. Ma che crede? Che se ne ho fatti pochi di sti viaggi. Per cui dico, che famo? Dico, sacra maestà, famo li giochi? Per cui lo dica pure a suo marito, e se invece va, mannà, che combiniamo, se no vado a provare in qualche altro sito, che qui fra re, ministri, baricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarne, per cui sa, me li ridia li giocherelli, che fa tela. Ma scusi le domande, fece lei. Ma lei che può? Tre navicelli. Oh, e ognuno puta caso quanto grande? Sul genere di quelli che portano il marsala riva grande. Va bene, fece lei. Vi sia concesso. Capischi siccome gli venne bene, che glieli fece da quel giorno stesso. E lui, sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciorse le catene e agnede in alto mare come un razzo. Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stava in osmollo, guarda, riguarda e voglia slunga al collo, l'America era sempre più lontana, e ogni tanto veniva una buriana, lampi, fulmini, giù a rotta di collo, da di qui si va tutti a scavicollo, e dopo una giornata sana, de tempesta schiariva poco a poco, l'aria scottava che pareva un forno, a respirare si respirava il fuoco e come che rialzavano la testa, quelli avanti passavano un altro giorno e pada pum, fede giù un'altra tempesta e l'hai da sentiti da chi c'è stato sì che è la tempesta. Quelli sono momenti che, caro amico, quando che li senti rimani a bocca aperta, senza fiato, che lì quando che il mare si è infuriato tra mezzo alla battaglia degli venti, se lui te li può agguantare gli bastimenti, te li spacca a così come un granato. Eppure il mare quando è bello, che senti quell'azzurro del Turchino, che te ci sdrai longo lì vicino, te s'apre il cuore come uno sportello. Che delizia, senti quel ventarello salato, quel freschetto fino dell'onne che le muove il ponentino, che pare siano affanni sconnarello. Eppure sotto a tutto quel celeste, dimmi un po', chi lo direbbe che ci coveno sotto le tempeste? E così uno, finché non ci s'avvezza, che te credi che lui ci penserebbe sì fino a dove arriva la grandezza? Che lì mica de giova essere sapiente, non giova avece testa o retintiva. Col mare, se non c'hai immaginativa, te l'immagini sempre differente. Che lì tu hai da riflettere con la mente, che quel che tu vedi dalla riva, lontano, insin che l'occhio te ci arriva, pare chissà che cosa, e invece niente. Che lì tu puoi camminare quanto te pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove c'è il cielo te pare finito, invece arrivi lì, comincia allora. E figurati quelle che ci stavano. Avanti, sempre avanti, tribolavano l'America, sì, vattela pia. E poi con tante bucche che mangiavano. Ma magna, si sa, per quanto sia le provviste, più stava e più calavano. Per cui qui dice, è meglio venì via. Defatti, capischi, un po' per volta, cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta accidente qui, dove ci porta? E a botta, al fine, venne il giorno. Che fecero per Cristo, che famo? Gli agnetero davanti e gli parlorno. Gli fecero dice, ci dispiace di dirglielo davanti. Ma qui chi più chi meno, a tutti quanti sta bugiarata qui poco ci piace. Così le pure fatevi capace. Qui non ci sono tanti sacramenti. Qui ogni giorno di più che se va avanti, se va dalla padella nella brace. Avanti, so parole belle, ma qui non ci sono né angeli né santi. Qui ogni giorno di più che se va avanti, qui si tratta della pelle. Già, speriamo che lei sia persuasa. Se no, dice, non facci complimenti. Vadi pure, ma noi torniamo a casa. Fece lui. Sì, avevio st'intenzione, potevio fa de meno di far viaggio. E rifrettece all'ora dell'ingaggio, non mo che stiamo qui in agitazione, che non se sa, quando uno che si espone ha da sta, col vantaggio e lo svantaggio. Almeno così fa chi c'ha coraggio. E glielo disse bene, con ragione, perché quando uno, caro mio, si vanta ad essere un uomo d'onore, quando uno ha dato la parola, deve essere sacrosanta. Che sia lunga la strada, o brutta o bella, magari Cristo ha da morire ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, quelli ciurcinati, ma pure loro bisogna compatirli. Lì soli, in mezzo al mare, abbandonati. Se dice presto, rimane tranquilli. Capisco di chi tu ci sei dannati, dunque mo è inutile fa tutti sti strilli. Ma dimmi un po' dove erano arrivati. Che ci facevano lì? Qui sta Erbusilli. Erbusilli. E ogni giorno era come il giorno appresso. Oggi era brutto, speravi domani, te svegliavi domani ed era lo stesso. Quante volte è successo a te? Quante volte sei successo? Io nella mia ignoranza mi ci investo. Va tutto quel cammino, arriva in alto mare, arriva insino a quello straccio di distanza e vedete la morte in lontananza. Vole vive! E sentite lì vicino, nelle orecchie, la voce del destino che ti dice lasciate ogni speranza. Oh! Ma lui che per quanto sia già c'era avvezzo a parlare per convincere le persone, gli invece dice andiamo con le buone! Venite qua, spaccamo ormai in mezzo! È vero, sì, se tribola da un pezzo, per cui pa risolve sta questione non c'è altro da fare che fa una convenzione, che a me pare sia l'unico mezzo, che noi, pantri due giorni, andiamo avanti. E sì, proprio non c'è niente se ritrocede indietro tutti quanti. Ve capacita? E quelli c'è ben sorno. Beh, dice, sono due giorni solamente. Beh, gli fecero annam e seguidorno. ma lui capisci, lui la pensò fina. E dar modo che agiveno li venti, lui capì che la terra era vicina. Per cui dice, intanto se cammina, beh, dunque dice, famoli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti, dei fatti come venne la mattina. Terra! Terra! Terra! Avanti, avanti, terra! Avanti, avanti! E tutti quanti si abbracciavano, ridevano, piagnevano, terra, terra, avanti, avanti. E lì agli gran pericoli passati, ma chi ci pensava più, si abbracciavano, si baciavano e c'erano arrivati. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Welcome, welcome to America. Welcome to America. On the right, you can see the Twin Towers. No, no, no, you can't see the Twin Towers. But you can see tomato, tomato, tomato, potato, tomato. You can see ketchup. You can see Quentin Tarantino. You can see Soup Commandante Marcos. You can see whatever you want. It's America. You can see Rio de Janeiro, Rio Plata, Rio Negro, Alaska. You can see Buffalo Bill, Buffalo Soldier. You can see Patagonia, Neruda. You can see whatever you want. You can see Amazonia. You can see... No, no, no, no, no. You can't see Amazonia. Just don't think green, just be gray. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing the bushes of fun, now the jingle hop has begun. Dunque, come finì? Come finì benone. Finì che quando tutto era finito, si cominciò a formare come un partito che gli voleva fare l'opposizione. Gli dicevano, è vero, sì, avete ragione, non c'è niente da dire, siete istruito, è l'America, sì, non c'è questione. Ma se poi invece fosse un altro sito? Ma quello li messe con le spalle al muro, gli fece dice, ah sì, ne dubitate, mi dispiace, ma io ne sono sicuro. Vuol dire che poi se voi non ci credete, domani presto, al primo che incontrate, andateglielo a di e sentirete. E quelli puntuali, appena fece giorno, che se cominciava appena a vede, se n'agnidero. E come che sbarcorno non sapevano da dove metter piede. Defatti, appena scinti, si ritrovorno in mezzo a una foresta da non crede, dove che malappena che c'entrorno, si ritrovorno in mezzo allo stravede. Te basta di che lì in quella foresta, capischi, le piantine dei cicoria gli arrivavano qui, sopra la testa. E quelli gli successe questa. Che mentre lì, fra mezzo al villutello, così arto, per entrare nella foresta rompevano i rami col coltello, videro un fregno buffo, con la testa tutta dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo, con una cresta tutta formata di penne d'uccello, vestito mezzo ignudo. Se fermorno, se fecero coraggio. Ah, quell'uomo! Gli fecero. Chi siete? Fece lui. Chi ho da esse? Sono un servaggio. E voi altri qua giù, chi invece manna? Voi lo saperete! Sì. quando che vedremo il re che ve comanda. E quello allora gli fece il piacere di portarli dal re, che era un sultano vestito tutto d'oro, con un ciminiere di penne che pareva un musulmano. E allora quelli con buone maniere gli fecero dice: noi venimo da lontano. È già qui. Per cui dice: vorressimo sapere se voi siete o non siete americano. Fece quello. De dove semo? Ma semo de cui? Ma come sono chiamati sti posti invece noi? Noi non lo sapemo. Ma vedi sì in che modo procedevano. Ma te basta dire che lì c'erano nati nell'America. E manco lo sapevano. Figurati allora tutti quelli. Nel vedeli così senza malizia, gli cominciarono a dire: famo amicizia, viva la libertà, siamo fratelli. E intanto l'antri, sugli navicelli, che avevano sentito la notizia, capirono che la cosa era propizia, sbarcorno tutti giù dagli vascelli. E quell'antri gli sbattevano le mani, e quelli gli davano la guazza, e a mano che vedero che quelli ci abboccavano, figurate sì come li trattavano. Li trattavano come ragazzini. Piavano due pezzi di specchietti, una manciata di buglie, due pezzetti di vetro, un astuccetto di cerini. Gli dicevano: quanto so carini voler contro cambiare i vostri oggetti. E tutti quanti quelli poveretti gli davano le spille agli orecchini. Figurati, ci fecero la mozza. Quando mi dici che le ceste d'oro così arte, ma le portavano via qua a barozza. Come, scusa, mi farite come gliele davano. Ma quando mi dici che da quelle parti lì, li quadrini, non li circolavano. Perché il selvaggio, cuore mio bello, non c'ha i quadrini. E manco gli dispiace. Che lì il commercio è come un girarello. Capisci, siccome? Fatte capace. Io sono un selvaggio e mi serve un cappello. Io c'ho un abito e so che a te te piace. Io te do questo, adesso dammi quello. Barattamo la roba e siamo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorina. Ma loro non ce li hanno gli quadrini. Invece noi che siamo una famiglia, una famiglia, e una razza, razza de gente più civile, civilissima, ce l'avemo tante. E il governo se li piglia. Come? Il governo se li piglia. Noi che siamo una famiglia di una razza più civile, ce l'avemo e il governo se li piglia. Se li piglia. Noi ce l'avemo e il governo se li piglia. A rimortacci loro. Ma lì non si sottasse. E le persone agiscano secondo il naturale. E lì non si trova tante distinzioni. L'ignuo selvaggio che vedi è un uomo uguale. Che dichi che non c'hanno l'istruzione, ma intanto so decore e so reale. E finché tu lo tratti con le buone, ma non c'è il caso che lui ti faccia male. Vuol dire che se tu ci fai la conoscenza e quelli ti spalanchino le braccia, beh tu non gli hai da fare una prepotenza. Se quello ti viene a fare le carezze, tu gli dai le carce in faccia, se sa quello ti risponde con le frizze. E così finì lì, che venne il giorno che quelli cominciarono a nangattaccia, venne il giorno che quelli gli diedero la caccia, venne il giorno che ce l'ha chiapporno, allora si capisce, cominciarono la lite, e dopo venne il portafaccia, quelli gli seguitavano a ride in faccia, e quell'altro, lo sai, gliela cantorno, poi a un certo punto si capisce, seguitorno la lite, cominciava a volare qualche cazzotto, poi le cose arrivarono a un punto tale, che lesto e presto fecero un complotto, e qui... prima che schioppa il temporale, e qui è meglio assai di fa fagotto. Sì, sì. de vatti, s'agguantorno più roba che potevano, la caricorno sui bastimenti, spalancorno le vele in faccia al vento. Ormai tanto la strada la sapevano e ritornorno a casa in un momento. Successe nel ritorno. Per quanto che uno c'ha immaginazione, ma come ci voglia arrivare con la ragione a capire quel che fu quando sbarcorno. Ma pensa come restorno tutte quelle migliaia di persone quando vedero tutta quanta quella processione di tutto quanto quello che portorno. Servaggi incatenati, scimmie, pappagalli, leoni, liofanti, pezzi d'oro a cucì, che per portarli l'avevano da mettere sul caretto. Le perle, i brullini, i brullanti, li portavano drento al fazzoletto. E lui fu accorto peggio d'un sovrano. I re, gli imperatori, le regine, te dico, gli baciavano le mani. Le feste non avevano mai fine. E dappertutto quanto il mondo sano, fino al fine dell'ultimo confine, onori, feste, e dopo, piano piano, cominciorno gli triboli e le spine. Che gli invidiosi, che ogni giorno vivono de veleno, nel vede che uno arriva a fa quello che gli altri non ci arrivano, gli è cominciorno come gli serpenti, mentre che lui ne manco li capiva, intorcinallo negli tradimenti. E lui, quello che aveva superato, ridendo, li più boia tradimenti del mare, della terra e degli venti, con l'uomo ci rimase massacrato. E lui, quello che aveva straportato i sacchi d'oro a bastimenti, fu ridotto a girà per i conventi col fio in braccio come l'affamato. E il re, che lo rivossino a ammazzarlo dove sta, dopo tanto e tanto bene che aveva ricevuto, con l'antri boia si faceva gara, e dopo avergli messo le catene voleva farlo chiude alla longara. Ma come? Ma dopo tanto e tanto bene, mamma avresti da baciare dove cammino. E invece mi fai mettere le catene, mi tratti come fossi un assassino. Ma tu sei Gasperone Spadolino, e che sangue ci avrai dentro alle vene? Il sangue della tigre, delle iene? E che ci avrai nel cuore, il travertino? Ma come? Dopo tutto quel che ho fatto, che t'ho scoperto un monno e te l'ho dato, mo mi vuoi far passare pure per matto? Ma stare matto tu, brutto impostore, vassallo porco vile scellerato, diede fora che me te magno il cuore! Così gli avrebbe detto a quell'incarato. Invece quello che era un santo, rimase fermo lì, col cuore sfranto, senz'uno che l'avesse consolato. E quelli che gli s'erano rubato tutto quanto, l'onore, la scoperta, tutto quanto, non gli diedero pace insino a tanto che loro non lo veddero schiattato. L'uomo tra le granfie del destino. L'uomo tra le granfie del destino. L'uomo. L'uomo tra le granfie del destino diventa tale quale un giocarello che decapita in mano a un ragazzino, che può essere il più bello che ci sia, ma dopo che ci ha giocato un tantinello, che fa? Lo rompe e poi lo butta via. E poi siamo sempre sul solito argomento. C'hai voglia a fa? Ma l'uomo è sempre quello. Ponno mutare i tempi, ma il cervello dell'omaccio e c'ha sempre un sentimento. Ma come? Ma sì, c'è un uomo di talento. Quando è vivo, invece di tenerlo sull'altare, lo portano al macello. Dopo muore e gli fanno il monumento. Ma quando è vivo, non lo fate piagne e non gli fate nascidigli il cuore e lasciate i sassi alle montagne. Tanto la cosa è chiara e manifesta, che il monumento serve per chi muore. Ma il monumento serve per chi resta. Il monumento serve per chi muore. Almeno chi c'ha coraggio. E quando uno ha da sta con lo svantaggio e lo svantaggio, almeno chi fa così, chi c'ha coraggio. Lui la scoprì perché era lui. Il vantaggio e non lo svantaggio. Un fatto. Vedi noi, mo noi stiamo qui a parlare. Mo qui c'è lui e sta a cantare. E un pochino sta pure a suonare. Mo c'è un altro che qui sta seduto e mi sta ad ascoltare. Mo tu m'ascolti per radio, che sai dove cazzo stai? Mo qui non se pensa e stiamo su Radio Onda Rossa. Non se pensa. E forse a volte l'abbiamo detta grossa. Non se pensa e mo noi stiamo qui a parlare. Non se pensa e tu ce stai ad ascoltare. Ma invece stiamo tutti nella storia. stiamo tutti nella storia. Tutti. Anche adesso. Tutti. Lo spettacolo La scoperta dell'America, testo di Cesare Pascarella con Valerio Malorni alla chitarra, Andrea Cota. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Giorgio De Finis, direttore artistico di ITER, Festival delle Periferie, in diretta streaming dal 21 al 23 maggio 2021. Ben trovato. Buongiorno, ben trovato. Ci parli di questo progetto? È una 3 giorni dedicata al tema della periferia, un'iniziativa digital, metà fisica e metà digitale, perché abbiamo costruito una piattaforma ad hoc, un po' perché questo museo che promuove l'iniziativa, il Museo delle Periferie, il RIF, non ha ancora una sede fisica, e un po' perché naturalmente stiamo ancora, diciamo, attraversando le limitazioni dovute al Covid-19, alla pandemia. Quindi è un piccolo tsunami, una 3 giorni con 99 ore di diretta streaming dal Teatro Vittor Bella Monaca, dove avremo 3 set che lavoreranno simultaneamente, e tanti altri luoghi della città e non solo che mandano il loro palinsesto. A Roma c'è il Teatro del Quarticciolo, le Biblioteche di Roma, la Casa dell'Architettura, ma anche il Metropolis con il Museo dell'Altro e dell'Altrove, in time con il lunghissimo e articolato programma proposto da Scomodo. Collegamenti con la Biennale di Venezia, che inaugura, il Fatico d'Italia inaugura lo stesso giorno che saremo in collegamento, quindi insomma, diciamo, il tentativo di dare voce e di riflettere in maniera non banale sul tema delle città, che sono l'ecosistema di riferimento dei sapiens del terzo millennio e della periferia, che se ne scrive tanto, ma sempre nei soliti termini di luogo violento, abbandonato a se stesso, dove niente funziona e niente soprattutto è interessante. Quanti saranno i lavori proposti? Sono, ripeto, 99 ore solo dal teatro, quindi avremo talk, avremo l'ex magistralis, avremo registi, attori, poeti, artisti, tanti, ma soprattutto studiosi della città. Quindi il tema lo affrontiamo e lo rigiriamo da tutte le sfaccettature, da tutte le prospettive disciplinari. Tanti urbanisti, architetti, sociologi, scrittori. Non cito nomi perché sono troppi, però avremo anche 3 concerti di Riccardo Sinigallia con un nuovo gruppo creato ad hoc che ci accompagna per tutti e 3 giorni, anche sonorizzando una delle 3 sale del teatro, e poi un concerto sabato 22 curato da Piotta, da Tommaso, dove ci sarà Ace One, Assalti Frontali, Gemello, Cicoria e tanti altri, e una seconda serata a cura di Giulia Nania che si chiama Roma Bombay, con tante artiste e altri artisti, quindi insomma c'è anche questa parte musicale che credo, spero, mi auguro sia aperta anche al pubblico. Stiamo aspettando che l'arena abbia i documenti per il pubblico spettacolo, se arrivano sarà anche forse uno dei primi concerti dopo la riapertura. Rispetto ad orari e proposte, come saranno articolate questi 3 giorni? Il festival parte alle 10 del mattino di venerdì 21 maggio e almeno nel nostro programma termina alle 10 di sera, così per i 3 giorni. Iniziamo con un momento abbastanza interessante dal mio punto di vista, perché lo reputo un po' una rarità, ecco, non mi risulta ci siano stati incontri di questo tipo, perché noi abbiamo invitato tutti gli amministratori di questa città a raccontarci in 20 minuti che cosa pensano della periferia, che cosa va fatto in periferia, che cosa è stato fatto per la periferia. È un incontro che volevo assolutamente, perché secondo me non si può parlare di periferia solo portandoci Dante o separando la cultura dalla politica, quindi mi interessava questo primo giro. All'opposto abbiamo uno speaker corner che permette ciascun cittadino di mandarci un video messaggio con la sua opinione, il suo punto di vista, il suo cahier de doléance, oppure anche i suoi apprezzamenti. Quindi cerchiamo veramente di dare voce un po' a tutti e di riflettere in maniera complessa su quella che è una realtà complessa. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? La piattaforma, a parte tutti i canali social, anche proprietari delle singole realtà che partecipano, è iperfestival.it, quindi qui parte tutto o arriva, perché molte cose saranno live streaming dai canali di realtà altre che hanno partecipato al festival e noi li ripeschiamo, li mettiamo sulla piattaforma e viceversa, quindi la piattaforma fa un po' da punto di riferimento per tutti, però è anche un festival non solo ubiquo negli spazi fisici ma anche in quelli digitali. Iper, Festival delle Periferie in diretta streaming dal 21 al 23 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giorgio De Finis, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, ci conto, a presto. Con Giuditta Cambieri, ideatrice della serata di stand-up comedy Incoronate Comiche, a Roma, Teatro Lo Spazio, giovedì 20 maggio 2021. Ben trovata. Ben trovato anche a te, salve a tutte e tutti. Ciao. Federico, evviva sempre. Cioè, già che siamo qua in diretta, che ci stiamo parlando, è fantastico, no? Non è scontato sempre, non è sempre scontato. Ci parli di questo progetto? Incoronate Comiche è un progetto che si può spiegare così. Diciamo, è una sorta di collettivo che si sta formando, di donne, ma molto ampio. Ci incontriamo per cercare di scrivere insieme dei monologhi comici, ma comici tra virgolette anche non solo, di stand-up, per fare delle serate tra di noi, con il pubblico, e cercare di capire se il tipo di comicità nuova che stiamo cercando funziona. E pare che funzioni, perché abbiamo fatto diverse serate e il pubblico si allarga sempre di più. L'idea nostra è quella di uscire un po' dagli stereotipi di genere che prevedono e che vedono da sempre, diciamo, la donna in scena che in quanto comica fa ridere se è brutta, grassa oppure oca. Cioè, se non hai questa fortuna di essere così, pare, dicono i colleghi, dicono quelle che non si fa ridere. E invece noi, insomma, vogliamo un attimo trovare uno spazio nostro di anche autostima per coltivare un altro tipo di comicità. C'è un sacco di roba qua dentro, sono serate che sono accessibili anche ai sordi, sul fatto di cercare di non cascare facilmente in una comicità troppo volgare. Abbiamo in scena anche dei ragazzini, ma le donne con i bambini, per ribaltare un po' questa immagine di fragilità delle donne e dei bambini e per verificare il fatto che si può parlare di tutto, non per forza mettendoci dietro la volgarità per far ridere, ecco. Quindi è comunque è un progetto a prevalenza di donne, ma non solo comunque. È a prevalenza di donne perché parte da un'esigenza al femminile, ma proprio per questo è aperto anche agli uomini, nel senso che chiaramente, essendo nato dall'esigenza di formare uno spazio dove le donne abbiano un po' di più voce e capitolo, non si vuole fare lo stesso errore che si fa negli altri spazi dove appunto si fa fatica a entrare, perché se donne fa, gli uomini sono ben accetti, dipende da quello che vogliono dire sul palcoscenico, nel senso niente razzismo, niente misoginia, insomma niente di tutte quelle cose che ci capiamo, insomma. Non voglio dire banalità, ci capiamo, insomma. E appunto per scardinare le barriere che ci siamo costruiti intorno, anche così per dar prova della possibilità di rendere accessibile a tutti gli argomenti, le serate sono accessibili ai sordi e agli udenti insieme. Tu mi chiederai come è fatta questa cosa? Ci sono in scena attrici e attori LIS che traducono in voce o in lingua dei segni, a seconda se l'attrice o l'attore che fa il proprio monologo è sordo oppure udente. Sono proprio interpreti o assistenti alla comunicazione o persone che stanno seguendo dei corsi di lingua dei segni che seguono il laboratorio di recitazione per diventare attrici e attori, per riuscire a fare una traduzione il più possibile incollata a quelli che sono i sottotesti e le dinamiche della recitazione dell'attore e dell'attrice stessa. In più, in scena c'è una relazione, non è l'interprete completamente distaccato, c'è tutto un lavoro per trovare appunto in caso interazioni, complicità in scena tra traduzione e testo recitato. Com'è strutturata la serata? Quante artiste e quanti artisti ci sono? Quanto fanno a testa e se escono più volte sul palco? È proprio una giostra, nel senso che, a parte che ogni volta, perché guarda, Incoronate Comiche, appunto come ti dicevo inizialmente, sta diventando un collettivo molto frequentato, perché il progetto è aperto, anzi ne approfitto della radio per dire, se siete attrici, attori e volete fare l'esperienza insieme a noi sul palco comica di scrittura e messa in scena, noi siamo 35 adesso sulla carta, di volta in volta il cast cambia e diciamo come numero basico siamo 8-9, i monologhi durano dagli 8 massimo 10 minuti. Adesso ci sarà il problema che col fatto della chiusura, non so se poi rimarrà fino al 20 maggio, dovremo stare nel loro ore 10 di spettacolo, altrimenti non abbiamo il tempo per tornare a casa tutti quanti, però siamo contenti di tornare in presenza in questo senso. Diciamo che è una giostra, nel senso che c'è un'attrice dopo quell'altra che si presentano a vicenda. Non è una serata di cabaret dove c'è la presentatrice, presentatore, dove ci sono tormentoni. No, proprio ogni attrice entra e presenta quell'altra. È una giostrina, ecco. Che non è molto questa immagine, penso che funzioni. Un po' così. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Li trovate sulla pagina del Teatro Lo Spazio di Roma oppure sulla pagina Facebook Incoronate Comiche. Poi comunque siamo anche, perché la nostra casa dove ci alleniamo e prepariamo i pezzi è la Villetta Social Lab, che si trova alla Garbatella, e dove c'è anche un altro collettivo teatrale che collabora con Incoronate Comiche, e anche sulla Villetta Social Lab potete trovare informazioni. Saremo sicuramente fisse al Teatro Lo Spazio da ottobre, faremo una serata al mese dove appunto ogni mese spettacoli nuovi, ma saremo anche al Teatro dei Servi, sia con le serate speciali delle Incoronate Comiche, che sono state, che prevedono un'attrice comica con interprete, quindi accessibile anche ai sordi, dove viene fatto lo spettacolo completo dell'artista. Incoronate Comiche al Teatro Lo Spazio a Roma, giovedì 20 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Giuditta Cambieri. Un in bocca al lupo e a presto. A prestissimo. Comunità Tard, gli assalti frontali, per parlare dell'evento in occasione del 44esimo compleanno di Radio Onda Rossa, dal titolo Storie di Movimento, un dialogo con Federico Raponi, autore del libro Quando il fiume si dirada, e con Comunità Tard sul disco antologico Assalti frontali 1990-2020, e interventi e letture musicati con Tamara Bartolini e Michele Baroni e Silvia Gallerano. Lunedì 24 maggio 2021 alle 17.30 sotto la radio, quindi in strada, via dei Volsci 56. Ben trovato, caro. Carissimo Federico, ciao. Un grande piacere di risentirti e di ritrovarci lunedì in strada per la festa della radio e in diretta per parlare un po' di tutti questi anni che abbiamo passato anche insieme, chi con la musica, chi con il teatro e anche con questo bellissimo libro che hai scritto. Tra l'altro ci eravamo visti in occasione di uno dei lanci, prima che si richiudesse nuovamente tutto per il Covid, al Lago della Snia, e ci eravamo ripromessi di fare una presentazione insieme dei rispettivi lavori, e quindi mi sembra una buona occasione anche il compleanno della radio e di farlo proprio in strada tra la gente. Sono state tante le occasioni anche citate nel libro che ci hanno visto percorrere gli stessi percorsi, a partire per esempio dai primi concerti dell'allora Onda Rossa Posse all'Università La Sapienza occupata durante il movimento studentesco della Pantera, per il concerto Fuori dalle Bibbia a cui contribuì anche il centro sociale a Scarasuna, nel quale allora facevo attività politica e sociale, e che diede poi il via a tutte le iniziative di Radio Onda Rossa sotto il carcere di Via Bibbia, il capodanno per stare insieme ai detenuti e alle detenute. Poi tante altre occasioni, il corteo dell'opposizione sociale del 94 a Milano, a cui avete dedicate anche un pezzetto di una vostra canzone sotto botta, e poi tanto altro, passando per Genova e al Teatro Valle Occupato, dove avete suonato insieme alle Bestie Rare in una serata proprio organizzata da una delle trasmissioni della radio, Dai e pure te, per sostenere proprio Onda Rossa. Tante occasioni, sì, io veramente. Penso che... È una bellissima occasione per ragionare anche su come l'immaginario che avvolge poi la cultura antagonista, la controcultura, insomma quella che ho conosciuto io poi quando abbiamo cominciato, quindi negli anni Ottanta, quale tipo di immaginario ci muoveva a noi e anche era pure abbastanza egemone la musica tra virgolette alternativa, per cui era anche quello appunto di chi voleva, di chi sperava, chi aveva questa idea di cambiare il mondo, e cercando di cambiare il mondo ci si sentiva anche felici di farlo, era il modo per raggiungere la felicità. Questa cosa poi veniva dagli anni 70 chiaramente, che era molto presente negli anni 80 e tutto il laboratorio culturale che è stato negli anni 90, quindi è una bella occasione per parlare di questa cosa. E immaginario che poi ha avuto chiaramente il suo culmine in Genova, Genova 2001, e che ha conosciuto la violenza poi con cui è stato attaccato, l'uccisione di Carlo Cigliari, la violenza della Dia. Poi dopo c'è stato 11 settembre, la guerra, il grande movimento anche della pace e il tradimento che ha avuto il movimento della pace, e poi la crisi economica, e quindi l'entrata in crisi anche di tutto questo immaginario che adesso sembra in crisi, per cui fondamentalmente non c'è più questa idea magari di voler cambiare il mondo, anzi c'è questa staticità in cui siamo finiti, una specie di sabbie mobili, per cui c'è quasi l'idea di voler far credere che si è parte del mondo dei ricchi quando poi magari non lo si è nemmeno. E quindi cioè, spero che insomma avremo modo di parlare un po' di tutte queste cose e di ripercorrere alcuni momenti bellissimi che sono stati delle pietre miliari appunto in questi 30 anni. Sì, tra l'altro ecco, mi veniva in mente anche per esempio tutta la campagna per il reddito di cittadinanza, che fu propria del movimento negli anni 90 e che voi avete avuto anche occasione in merito di dire la vostra con Denaro Gratis. Eh sì, magari cantiamo pure qualche canzone, immagino, in strada quando ci ritroviamo lunedì 24 alle 17.30, veniteci a trovare a Via dei Volsci, oppure ci ascoltate in diretta dalle frequenze di Radio Onda Rossa e siamo a festeggiare il compleanno della radio. Storie di movimento per il 44esimo compleanno di Radio Onda Rossa, dialogo con Federico Rapone, autore del libro Quando il fumo si dirada, e con Militant A sul disco antologico Assalti frontali 1990-2020, con interventi e letture musicate insieme a Tamara Bartolini, Michele Baronio e Silvia Gallerano. Un abbraccio caro e ci vediamo in strada. Un abbraccio Federico, ci vediamo lunedì per tutti. Con il regista Enrico Masi per presentare l'audio documentario Diari del nucleare italiano su Radio 3 dal 24 al 28 maggio 2021. Ben trovato. Ben trovato a tutte e a tutti. Grazie Federico per questo ascolto e questo invito. Un progetto molto interessante, ce ne parli? Dunque, ci siamo trovati io e Stefano Migliore, autori dell'audio documentario, l'anno scorso ad uno stadio di avanzamento del soggetto del nostro nuovo film, che ci portava, anche se in un momento molto difficile di spostamento, a contatto con il tema atomico. E allora stiamo parlando di fasi di ricerca, studio, incontro con professori, con ingegneri. Abbiamo pensato di declinare questa primissima parte dello studio in un audio documentario espressamente dedicato al nucleare italiano, perché il film in realtà non si ferma all'Italia, va in Europa e anche al di là dell'oceano. Quindi abbiamo parlato con Radio 3, abbiamo fatto questa proposta già un anno fa, quindi è un anno che lavoriamo a questo audiodocumentario e sono 75 minuti di montaggio sonoro, al cui interno ci sono oltre 15 interventi suddivisi in 4 regioni, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, è una puntata speciale le musiche di una parte del nostro collettivo che si occupa delle composizioni e anche di Sculptures, che è un altro collettivo sonoro, diciamo, di cugini più grandi di noi della scena underground, non soltanto emiliana ma nazionale, molto importante degli anni 2000. Quindi c'è un contributo sonoro musicale importante. E poi ci sono dei fondi, diciamo, di field recording che riportano un po' a questa deriva geografica in un'Italia ovviamente svuotata, e questo svuotamento anche così dello spazio nazionale ha portato a dei suoni diversi, alla potenzialità, alla capacità di registrare suoni molto diversi dal comune, non soltanto per la presenza animale ma anche per appunto dei lunghi momenti di vuoto. Pensiamo anche all'assenza degli aerei, che ha portato anche a un pensiero nuovo, non soltanto sull'ambiente, questa deviazione dell'interesse verso l'ambientalismo, la cultura verde, queste cose che poi sono cicli di interesse, ma proprio sul mondo, come una sorta di riappropriazione del mondo da un punto di vista sonoro. Per quanto riguarda il nucleare, quali sono oggi le grandi questioni rimaste aperte in Italia? Nel 2021 abbiamo iniziato con una grossa notizia, cioè la pubblicazione delle aree per il deposito unico nazionale. Se noi pensiamo alla storia recente, cioè quindi al referendum dell'87 post Chernobyl, con la vittoria all'80% dell'uscita dal nucleare e poi appunto poco è successo da allora, a parte ovviamente all'estero Fukushima, che ha bloccato una piccola ripartenza del tentativo di riaprire il nucleare in Italia. In questi 34 anni, dal 1987 ad oggi, non è stato fatto moltissimo sullo smaltimento. Infatti la grande questione è questo deposito nazionale delle scorie, deposito unico. Molto importante capire dove deve essere questo deposito unico, che prevede come minimo il controllo di un materiale, le cifre si muovono, ma circa l'80% delle scorie italiane sono in Piemonte. E infatti i luoghi più preposti, diciamo in classe A, sono la provincia di Alessandria e la provincia di Viterbo. Una grossa battaglia è stata fatta già prima, un'altra data importante è quella del referendum che in Sardegna è stato fatto una decina d'anni fa, che è stata l'unica regione che si è mossa per avere un referendum contro la presenza nucleare nella propria regione, vinto al 97% da queste forze contrarie. Quindi la grande questione è quella del deposito nazionale, di risolvere questi siti inidonei che esistono oggi sparsi, oltre al ritorno di scorie dall'estero, perché noi abbiamo anche delle scorie italiane che sono ospiti all'estero con dei costi molto alti, ma al di là del costo è una responsabilità anche gestire i propri rifiuti in generale. Questa è una grande questione. L'altra grande questione è che l'Italia è uscita dal nucleare nell'87, ma rimane un attore planetario di produzione di manufatti per l'industria atomica internazionale. È come se fosse un'eccellenza anche nel campo della costruzione atomica, ovvero l'Ansaldo nucleare, che è una costola dell'Ansaldo, che ormai è andata poi sotto il gruppo Leonardo, lavora al grandissimo progetto di ITER in Francia. Pochi conoscono questo progetto con il nome così evocativo di ITER. Per la prima volta superata la guerra fredda, a parole, non ancora nei fatti, nel sud della Francia, vicino ad Avignone, in Provenza, quindi in un luogo meraviglioso, le forze di tutto il mondo, India, Corea, Russia, Cina, Europa e Stati Uniti, si sono unite per tentare di arrivare alla fusione nucleare. In questa missione internazionale l'Italia è protagonista, quindi l'uscita dal nucleare in realtà è soltanto all'interno dei confini. Che ne sarà poi di questo audio documentario? Il documentario, nella tradizione di Radio 3, di Tre Soldi, che è subito dopo Hollywood Party da lunedì a venerdì, è sia sulle frequenze sia come podcast fisso sul sito, quindi sarà sempre consultabile e questa è una ottima cosa, gli permette di durare nel tempo. Una cosa che volevamo fare questa volta era dargli anche un'ulteriore diffusione. Mi interessava, visto che secondo me è un'opera radiofonica, mi piace chiamarlo così perché a parte il tanto lavoro, ma è proprio, come dicevo prima, l'unione tra dialettica, confronto e dialettica, montaggio, quindi anche molto vicino al cinema se vogliamo, musica, cioè composizioni, ma anche field recording, quindi è è veramente un'opera, non per forza sperimentale, però a tutti gli effetti è un oggetto artistico, e quindi io lo volevo stampare su nastri magnetici, quindi supporti che si utilizzavano, che purtroppo non si utilizzano più nel suono, mentre la pellicola, insomma, nell'immagine continua a essere utilizzata. Volevo stamparlo e volevo tentare di fare, oltre ai pochi festival dedicati al sonoro e all'audio documentario, a fare degli ascolti con anche una discussione intorno al tema, perché la cosa straordinaria è che questo tema ambientale raccoglie ancora, noi ci siamo occupati prima di altre cose, parlo nei 10 anni precedenti, è come se ci fosse tantissimo materiale, anche di parola, anche di pensiero, e questi 75 minuti, che non sono pochi, non è un cortometraggio, sono come un soffio. Tu sfiori con questi 75 minuti la questione, che è una questione ovviamente che si dibatte, e quindi è come se servisse un convegno intorno all'audiodocumentario. Però la sintesi serve sempre, e la sintesi è quella poi che l'artista deve compiere per arrivare all'opera. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Mi dicono esserci tutta la campagna Caucaso Factory sui social network attiva, poi il sito di Radio 3 si attiva il 24 di maggio con una scheda con tutte le informazioni istituzionali, e cerchiamo di fare dei lanci anche mirati con dei piccoli approfondimenti. Comunque il sito di Caucaso, i canali di Caucaso seguono tutta l'iniziativa. L'audio documentario Diari del Nucleare Italiano su Radio 3 dal 24 al 28 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento al coregista Enrico Masi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, arrivederci. Con Leila Spignese, una delle curatrici, per presentare il Festival delle Arti Collettive al Parco della Caffarella a Roma dal 3 al 30 maggio 2021. Ben trovata! Ciao, ben trovata! Ce ne parli? Il festival nasce dall'esigenza di creare, ricreare collettivo, cioè bisogno di sentire i corpi nello spazio, di un bisogno tutti, lo stiamo vedendo anche da come il festival si è iniziato dal 3, di volta in volta ogni evento si arricchisce di nuove persone, nuovi curiosi e curiose, e raccoglie anche molte persone che casualmente passano per il parco e si fermano a vedere lo spettacolo o a curiosare nel laboratorio. Comunque, diciamo, in generale per tutto il mese di maggio nel Parco della Caffarella si svolgerà il Festival delle Arti Collettive. Si tratta di incontri e contaminazioni di arte, di pedagogie e pratiche che permettono appunto di creare collettivi. Partecipare è organizzato, coordinato un po', tutto organizzato, perché il festival si è praticamente organizzato da solo, appunto, perché diciamo la leva è stata proprio questa esigenza diffusa un po' di rincontrarsi e soprattutto di stare insieme in modo piacevole attraverso l'arte. Ci sono tanti appuntamenti, sono circa 40 eventi, tra cui 6 spettacoli di Teatro Forum. Non so se ci ascolta, se conosce la tecnica, il Teatro Forum è una tecnica teatrale dove interviene per cambiare storie oppressive. Laboratori di Teatro Forum per mettere in scena le sfide portate da chi partecipa al laboratorio e provare collettivamente ad affrontarle. E poi tanti laboratori, spettacoli di mimo, di clown, di danza, di teatro danza, di disegno. C'è la giornata della giocoleria, la pittura, la poesia, il rap, il body percussion e ben 6 cori. Per andare un po' a scandagliare così nel programma, posso dire che si svolge in 4 settimane fino al 30 maggio, per tutto il mese. È finita già la prima settimana, che era quella sul tema dell'educazione, che è conclusa con una bellissima assemblea teatrale sulla scuola pubblica, che si è tenuta in un punto bellissimo della Caffarella con il tramonto, molto bello. La seconda settimana, che finisce il 16 maggio, è dedicata alle relazioni, quindi vi segnalo ad esempio il laboratorio di Teatro Forum per evitare le relazioni di nuove, chiamato così, che ci sarà il giorno 13. E questa settimana ospita, il festival ospita un gruppo francese di studenti e danzatrici che si occupano del consenso, di scandagliare il concetto del consenso nella danza, nel corpo, nel movimento, che si chiama Matière Vivante, sono francesi, hanno appena partecipato ad una residenza ed ora vengono a proporci le loro attività. Loro faranno un laboratorio e uno spettacolo di teatro forum, sempre nel consenso, sul consenso nella danza. Nel fine settimana di solito ci sono più eventi che laboratori, però anche nel fine settimana ci sono laboratori. Insisto su questa differenza perché mentre gli spettacoli non sono di prenotazione, i laboratori sì. Quindi qualora qualcuno fosse interessato, poi vi do i contatti per venire, bisogna prenotare scrivendo una mail alla mail indicata nel programma. Ciascun gruppo si gestisce un po' la sua organizzazione, quindi non vi darò una mail, ma vi rimando al sito che è www.parteciparte.com, dove trovate tutte le informazioni, le mappe di dove si svolgono i vari laboratori e i vari spettacoli. Ci sarà anche il concerto del grande Ponentino Trio, che a Roma perlomeno è molto conosciuto. Poi, terza settimana, dal 17 al 23 maggio, è dedicata alle differenze. Anche qui abbiamo durante la settimana soprattutto laboratori e poi nel fine settimana fori e lo spettacolo di teatro danza che si chiama Mitologia Negra del gruppo Roma Negra. La quarta settimana è dedicata al territorio. Anche qui insomma ci sono tantissime attività, sempre laboratori sia di danza che di teatro dell'oppresso. Ospitiamo il gruppo Teatro Liquido di Padova, che si occupa sempre di teatro dell'oppresso, uno spettacolo di circo, insomma tante cose. Tutti i giorni avviene qualcosa, sia la mattina che il pomeriggio? Tutti i giorni avviene qualcosa, tendenzialmente dalle 4:30 in poi, però alcuni giorni prima, alcuni giorni direttamente alle 19, se per esempio se si tratta di spettacoli si sfrutta la bellissima luce che c'è il tramonto alla Caffarella. Gli orari variano, però sono durante la settimana tendenzialmente pomeridiani, mentre nel fine settimana c'è anche qualcosa, diciamo, dalla tarda mattinata. I riferimenti internet ce li hai dati, ricordiamo il Festival delle Arti Collettive al Parco della Caffarella a Roma dal 3 al 30 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Leila Pignese. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Grazie, a presto! Con Pino Cormani dell'associazione Il Cilindro per presentare la campagna per mantenere in attività il Teatro San Raffaele a Roma, quartiere del Trullo. Pino, ben trovato. Anche a voi, anche a te e anche a chi ci sente. Ciao a tutti. Ci racconti questa situazione? Noi siamo lì da 40 anni in pratica e abbiamo fatto di spettacoli, di iniziative eccetera eccetera, insomma ci conosce un po' in tantissimi a Roma. Ora che cosa è successo? Che noi abbiamo un contratto che è scaduto il 30 novembre del 2020. Due anni prima della scadenza circa io ero andato in vicariato a chiedere la possibilità di prolungare questo contratto, insomma di rimetterci d'accordo per continuare perché ancora abbiamo voglia e abbiamo ottenuto tanti risultati. Loro mi hanno detto che erano molto contenti come io avevo portato avanti il teatro e la cultura in questo quartiere, nel quartiere Trullo, che non avevano nulla in contrario e questa cosa me l'hanno scritta, una raccomandata a mano quando sono andato lì, e dice praticamente che prendono atto del nostro interesse e che anche loro hanno la stessa intenzione, però dice poi mettevano in calce, siccome ci sono delle difficoltà della parrocchia a cui è affidato il teatro, gli proporremo in pratica un nuovo contratto a condizioni diverse eccetera eccetera. Quindi noi pensavamo magari ci sarà l'aumento del canone di locazione oppure più concessione per orari da dare a disposizione della parrocchia o del vicariato, insomma ci attendevamo qualche cosa su cui poter discutere come loro hanno scritto, e invece ci siamo accorti che adesso ci hanno mandato una lettera di diffida datata 3 maggio dove ci intimavano di non fare spettacolo e di lasciare tutto il teatro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, adducendo che loro non avevano mai detto che erano disposti a rinnovare il contratto, mentre comunque io ho un documento ufficiale firmato dal vicariato che attesta esattamente il contrario. Ora questo è un discorso legale, naturalmente noi siamo sostenuti da dei legali e quindi andremo a fondo eventualmente, però la nostra battaglia è quella di non andare ad uno scontro su una cosa così importante, cioè togliere al Cilindro che da 40 anni ha la gestione del teatro così, senza nessuna ragione, voglio dire, non è che noi siamo morosi non abbiamo pagato il cane d'affitto, abbiamo fatto spettacoli scandalosi, non so, pensate che la nostra principale attività a livello spettacolistico sono gli spettacoli per le scuole elementari di Roma, dove fra l'altro oltretutto abbiamo tantissimi studenti di scuole, i nostri clienti da 30 anni, insomma. Quindi non c'è stato qualcosa che ha fatto scatenare. L'unica cosa che ha fatto scatenare tutto quanto è il parroco della parrocchia San Raffaele al Trullo, che non vuole assolutamente, non vuole che ci sia questa gestione, vuole prenderlo lui il teatro e usarlo come pastorale. Insomma, qualcosa che con la cultura e col mondo del teatro ha poco a che fare, no, naturalmente. Ecco, quindi c'è questa sorta di chiusura, di rigidità, la quale noi ci stiamo un attimo ribellando, abbiamo fatto questo video, questo appello, che proprio adesso mi hanno mandato il resoconto ad oggi, che ha superato le 100.000 visualizzazioni, sono arrivate 1.500 email al vicariato, al parroco di Roma, chiedendo che non si mandi via la situazione del cilindro. Faremo una manifestazione il 28 di questo mese, verrà lanciata sui social, comunque già ti posso dire che sarà alle 18.30 davanti al teatro, un sit-in silenzioso, semplicemente così, di protesta e di sensibilizzazione verso il problema del teatro San Raffaele. Ci dai tutti i riferimenti internet? C'è una pagina Facebook del teatro, giusto? Sì, c'è una pagina Facebook del Teatro San Raffaele, c'è anche il sito del Teatro San Raffaele, poi il 28, dove verranno anche degli artisti importanti a darci la loro solidarietà, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura in genere, che verranno, che già insomma, abbiamo un po' sentito telefonicamente, si sono mostrati disponibili. La campagna per mantenere in attività il Teatro San Raffaele, un saluto e un ringraziamento a Pino Cormani dell'associazione Il Cilindro. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, io ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio la tua radio e coraggio, vedrai che ce la faremo. Grazie, grazie, grazie, grazie. Torniamo all'agenda della settimana teatrale, ma anche di tutti gli eventi culturali a Roma, di quali vogliamo darvi conto, con il nostro Simone Nebbia, dopo un bel po' di tempo. Simone, ben ritrovato. Ma che bello risentirci, finalmente siamo tornati qui, vuol dire che siamo anche tornati a teatro. A te è già capitato, Federico? Sei già stato in sala? Sono stato, pensa, a vedere La Metamorfosi alla prima all'Argentina. Oh, bene, io penso addirittura sono anche andato fuori, sono stato al Teatro Fabricone a Prato a vedere la prima delle nozze di Anton Chekhov con la regia di Claudio Morganti, e riprendere il treno per andare a teatro è stata un'emozione particolare, devo dire, Mi ha toccato profondamente, insomma, è un'attività che svolgo da tantissimi anni, quindi effettivamente ritrovarmi a farla è stato importante. Nella riapertura chiaramente si stanno accumulando una serie di cose, cerchiamo un po' di raccapezzarci. Assolutamente, beh, insomma, è una riapertura che sta creando un interesse di nuovo attorno al teatro. È chiaro che insomma il tempo è poco, quindi le stagioni sarebbero state in chiusura in questo momento, quindi finché regge lo spazio al chiuso possibile, quindi in genere intorno con maggio estensione via verso i primi di giugno, si prova a fare qualcosa ancora all'interno. Quando non lo permetterà più la stagione climatica, si uscirà fuori magari, e chi può farà delle cose all'esterno per l'estate. Insomma, vedo che anche il Teatro di Roma sta organizzando una stagione estiva, soprattutto sfruttando gli spazi del Teatro India, che sembrano insomma più adatti, ma non solo, anche insomma il teatro Torlonia, Villa Torlonia, che viene utilizzato decisamente da quest'ultima direzione con più attenzione da parte di non so chi, in realtà, perché se si conosce il problema è più che altro politico, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori la vicenda del Teatro di Roma. Sembra un po' un paradosso, ma il Teatro di Roma da un anno e mezzo praticamente non riesce ad avere un direttore, un anno e qualche mese. Giorgio Barberio Corsetti ha rimesso a marzo dello scorso anno il suo mandato da direttore per passare ad essere consulente. La direzione è passata passata ad interim al presidente Bevilacqua del Teatro di Roma, che l'ha tenuta finché un bando redatto in estate e concluso, diciamo, in ottobre, ha dato a Pierfrancesco Pinelli l'incarico di direzione del Teatro di Roma. E noi tutti pensavamo in realtà l'avesse presa questa direzione. La settimana scorsa questo, insomma, direttore in pectore Pinelli ha detto, a mezzo dichiarazione al Corriere della Sera, quindi non comunicato, con un comunicato del teatro, che non ha intenzione di prendere la direzione del Teatro di Roma, ringrazio tutti, però ha dei sopraggiunti impegni lavorativi. Qui vengono fuori un paio di domande che io lascio agli ascoltatori, così per capire un po' le cose. La prima domanda è: sopraggiunti impegni lavorativi con che tempistica? Perché insomma, un bando vinto ad ottobre avrebbe dovuto in qualche modo partorire prima questo rifiuto, quindi vuol dire che da ottobre fino a oggi che siamo a maggio il teatro ha avuto o non ha avuto un direttore? Questa è la domanda che ci si fa. E soprattutto ci si chiede anche a che cosa arriva il sopraggiunto impegno lavorativo per essere superiore all'impegno di direzione di un teatro nazionale. Ecco, queste sono un po' le domande che naturalmente ci viene da porre e nessuno ci risponderà, perché diciamo Pinelli non credo che lo farà, quantomeno a noi. Per quanto riguarda in realtà quello che c'è in scena, io direi che questa settimana insomma abbiamo bel modo di andare a teatro, al Teatro Basilica sicuramente cominceremo dal 20 maggio, perché proprio nell'anno che festeggia i 700 di Dante, un contemporaneo di Dante che è Roberto Ellisca, spero che non mi senta perché altrimenti, ma spero che non mi senta neanche Maia che ce l'ha mandata, stavo scherzando ovviamente. Roberto Ellisca legge Dante dal 20 al 23 maggio alle ore 19 al Teatro Basilica, con appunto la riapertura di questo teatro che nel recente nostro passato si era tornato, no, ad imporsi all'attenzione della città, e insomma sono ben contento di poter ripartire da uno degli ultimi teatri aperti a Roma, anche se in qualche modo sulle ceneri di un teatro che già c'era in precedenza. Per quanto riguarda invece il Teatro Vascello, ci troviamo già in scena dal 15 maggio e così sarà fino al 23, con la prima nazionale dell'Amore del Cuore di Carrie Churchill, che la regia di Lisa Carlazzo Natoli porta appunto sul palco del Vascello con cinque attori. Ma è un testo sull'attesa, una storia familiare che mette in sequenza dei fatti e degli incidenti, non per forza legati tra di loro, però tutti con un velo, con un filo sottile di inquietudine che pervade ognuno di questi fatti. Questa istituzione familiare in qualche modo è mandata proprio sulla scena come se fosse un treno in corsa senza freni, no? Mandata verso una sorta di sabotaggio, così ce ne parla la regista Lisa Carlazzo Natoli, e così lo andremo a vedere fino al 23 maggio al Teatro Vascello. Per quanto riguarda ancora il Teatro di Roma, io segnalo che al Teatro Torlonia è partita anche la stagione, sempre curata dal Teatro di Roma, con Fiabe altrove. Sono quattro fiabe in voce, con musica dal vivo, all'aperto del Teatro Torlonia. Abbiamo già cominciato il 15 maggio, il coordinamento artistico di Fabrizio Pallara, del Teatro delle Apparizioni, e in scena ci sarà il nostro Valerio Malorni, appunto. Le musiche dal vivo sono di Federico Ferrandina. Si tratta di una produzione dai 6 anni in su, quindi anche per le nuove generazioni. Lo spettacolo che ha iniziato, diciamo, una rassegna, è Biancaneve, è stato sabato 15 maggio, ma ci aspetta La Bella Addormentata nel Bosco il 22 maggio, sempre alle ore 18. Però poi insomma l'estate di fiabe continuerà fino poi all'11 luglio, con delle ospitate anche di varie compagnie che si occupano di teatro per le nuove generazioni. Davvero un bel programma, cioè, quindi invito ad andarlo a vedere, ma lo ricorderemo noi anche volta per volta. Al Torlonia sempre dal 14 maggio è iniziata la stagione di Sgombro, collettivo dell'underground romano dedicato al varietà, in 5 serate di teatro comico che si mostra appunto al Teatro Torlonia. L'apertura è stata data il 14 maggio ad Andrea Cosentino e Lucio Leoni con Pane e Circensi, che abbiamo anche poi visto in altri contesti, mentre questa settimana, venerdì 21 maggio, c'è il monologo con forse irraccontabile in realtà, è il One Woman Show di Gioia Salvatori, che attraverso appunto delle favole, dei modelli femminili, cerca di rintracciare i semi del presente attraverso la comicità. Quindi Gioia Salvatori Salvatori, assolutamente da non perdere, il 21 maggio con Cuoro per Sgombro al Teatro Torlonia. E anche qui andremo avanti con altre serate fino al 2 luglio, quindi avremo modo di riparlarne indubbiamente. Poi è l'occasione anche per tornare al Teatro Argentina, dove abbiamo visto ripartire con La Metamorfosi la programmazione del consulente Giorgio Barberio Corsetti. Invece dal 18, da questa sera fino al 30 maggio, Massimo Maurizio torna a confrontarsi con l'attualità estrema del capolavoro di John Steinbeck, ovvero sia Furore, con l'adattamento dell'eccellente scrittore italiano Emanuele Trevi. Massimo Maurizio sarà in scena con delle musiche seguite dal vivo da Giovanni Locascio fino al 30 maggio nella sala del Teatro Argentina. Invece, aggiungo, scusa Simone, rispetto a Furore, che l'edizione integrale in Italia è relativamente recente, perché è uno di quei testi che subì la censura fascista. Esattamente, esattamente. Credo sia l'edizione più recente sia quella di Bompiani, che l'ha ripubblicato, se non sbaglio, pochi anni fa, 3 o 4 anni fa, tra l'altro in eccellente traduzione, quindi se a questo punto possiamo dare il consiglio, direi che lo diamo anche completo. Grazie Federico della nota, perché era importantissimo. Effettivamente si sta molto parlando in questi ultimo periodo di censura a largo raggio, ma ricordiamo appunto che noi abbiamo nel nostro recente passato una censura piuttosto forte di stampo totalitario, che insomma va assolutamente rimarcata. Per quanto riguarda invece il Teatro India, che è l'ultima mia annotazione, dal 19, cioè da domani al 30 maggio, nella sala Oceano Indiano del Teatro India, va in scena Questo è il tempo in cui attendo la grazia, una biografia onirica e poetica dedicata a Pierpaolo Pasolini, che viene portato in scena dal regista Fabio Condemi, che abbiamo già apprezzato in recenti produzioni, con un interprete che ben conosciamo come Gabriele Portoghese. Sarà un viaggio dentro le sceneggiature del poeta friulano, che a Roma ha trovato insomma la sua casa più duratura, probabilmente possiamo dire così, una sorta di affresco del suo mondo poetico. Non stento a crederlo, perché in realtà dell'estetica e della costruzione estetica di Fabio Condemi direi che stiamo iniziando a fidarci, quindi lo segnalo con particolare attenzione, perché secondo me potrà offrire delle ottime idee sull'immaginario poetico pasoliniano. Un abbraccio Simone, alla prossima! Alla prossima, ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.